A che vi pare? A me è felice! Da bravo a voi seguite! L'amoroso e sincero Lindoro non può darvi, mia cara, un tesoro. Ricco non sono, ma cielo! Nella stanza conviene dir che qualcuno è entrato sia e la si è ritirata. Ah, cospettone, io già delirio, avvampo, ad ogni costo vederla io voglio. Va a parlarne, a tutto mi devi aiutare. Che furia! Sì, sì, v'aiuterò! Da bravo, entro agibo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via del tuo spirito, vediam qualche prodezza. Del mio spirito? Bene, vedrò, ma in oggi... E via, ti intendo, voilà, non dubitare, di tue fatiche largo compenso avrai. Davvero? Parola! E dunque oro a discrezione? Oro a bizzeffe, animo, via! Son pronto! Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare il mio signor Lindoro produce in me la dolce idea dell'oro.